America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, Mario Platero. Qualche giorno fa, martedì, vi ho raccontato delle attività del Centro Primo Levi di New York, la premiazione dell'attore John Turturro per l'interpretazione che ha fatto di Primo Levi nel film La Tregua di Francesco Rosi. Vi ho anche parlato di un signore, Andrew Viterbi, sconosciuto ai più, anche se in qualche modo tutti noi gli dobbiamo qualcosa, perché pensate, è l'inventore di un algoritmo matematico che oggi fa funzionare tutti i nostri telefoni cellulari. Viterbi è arrivato in America a 4 anni con la sua famiglia che scappava dalle persecuzioni antisemite del 38, è un esempio di sogno americano, è forse anche qualcosa di più del semplice sogno americano, perché studia all'MIT di Boston, poi diventa professore, inventa l'algoritmo che porta il suo nome, alla fine diventa imprenditore di se stesso, fondando con un socio la Qualcomm, che ha diffuso il suo algoritmo insieme ad altri algoritmi nei telefonini di tutto il mondo. Ecco, Viterbi non è, diciamo, raggiungibile molto facilmente, spero di poterlo trovare per fare 2 chiacchiere con lui, perché qualcuno lo considera un po' il nuovo Marconi. Ecco, intanto lo faccio attraverso le voci di 2 italiani che hanno avuto a che fare con lui, perché uno degli aspetti interessanti di questa storia è che, insomma, c'è un italiano che ha investito in questa società Qualcomm e che ha fatto una gran quantità di quattrini, si chiama Giuseppe Ciardi. C'è un altro italiano, un vecchissimo amico, carissimo amico, Riccardo Chiaberge, che è stato il capo della cultura del Sole 24 Ore, che ha scritto un libro su di lui. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Com'è che ti è venuto in mente di scrivere un libro su Andrew Viterbi, che in fondo, diciamo, non è che sia conosciuto ingiustamente, sottolineo, cioè, ci sono delle persone... Diciamo che era un illustre sconosciuto. Mi è capitato di leggere un trafiletto sul Corriere della Sera in cui si diceva che gli avevano dato non so quale onorificenza a Bergamo, dove lui era nato nel 35. E allora mi sono incuriosito, ma dico, ma chi è questo signore? Mi è cascato l'occhio, sai, un po' per caso. Dopo mi sono un po' documentato e ho scoperto che lui era un mito. Per esempio, per gli ingegneri l'algoritmo di Viterbi è una specie di Bibbia, insomma, no? Una pietra filosofale, qualcosa che un giovane ingegnere che lavora nel campo delle telecomunicazioni deve assolutamente sapere. Io, per me naturalmente era arabo, no? No, ecco, scusa, però ce lo spieghi l'algoritmo di Viterbi o no? Esatto, ecco, l'unica cosa che posso dire in parole molto semplici è che si tratta di una specie di scudo contro le interferenze. Insomma, dato che quando usiamo il cellulare, no, il rischio è che poi tutte le conversazioni si confondano e si mescolino insieme, a volte capita, no? Ecco, lui ha inventato questa formula matematica molto sofisticata, talmente sofisticata che ci volevano dei chip molto potenti che all'epoca non esistevano, quindi lui aveva come anticipato poi un'evoluzione tecnologica che in seguito c'è stata e che ha reso possibile poi l'applicazione della sua invenzione. E quindi tu, inseguendo l'invenzione, hai scoperto anche il personaggio. Ho scoperto il personaggio e questa sua storia straordinariamente avventurosa, che parte dall'Italia fascista, dalle leggi razziali, la sua famiglia costretta a fuggire in America e lui che così fa la sua trafila, va al Massachusetts Institute of Technology, poi incomincia la sua carriera e poi fa il salto, insomma, da inventore a imprenditore. Quando si dice che lui è il nuovo Marconi, forse si esagera un po', però qualche cosa in comune ce l'ha. Ed è forse questo abbinamento tra una grande capacità di inventare e un senso del business. Come si intitola il libro? Per l'appunto L'algoritmo di Viterbi, da profugo a re dei cellulari, la straordinaria avventura di un italiano in America. Parlando di Viterbi e di Qualcomm, ho con me un altro italiano che direttamente o indirettamente è stato coinvolto, ha avuto a che fare con Viterbi, o meglio con Qualcomm, Giuseppe Ciardi, Chief Investment Officer di Caledon, una finanziaria di famiglia che ai tempi, negli anni 90, fine anni 90, era senior partner a Park Place, un hedge fund che aveva investito in Qualcomm. Buongiorno Ciardi. Buongiorno Mario. Eccoci, bene, mi fa piacere che mi chiami Mario. Dunque, devo rivelare, noi ci conosciamo dai tempi dell'università, dunque ti chiamo come ti ho sempre chiamato, cioè Peppe. Allora Peppe, mi colpì quando tu allora comprasti questo titolo di cui nessuno sapeva molto. Ma tu l'hai comprato perché sapevi che c'era un italiano, avevi avuto un collegamento di qualche italiano che ti ha detto guarda che c'è un titolo interessante, perché tu sai che Viterbi appunto ha sviluppato la tecnologia chiave per la Qualcomm. Certamente, no, la storia si rifà più o meno quando ero ai tempi di Morgan Stanley, dove incontrai un altro italiano che si chiamava John Scurci. Questo signore era stato molto bravo nell'identificare un paio di compagnie che a causa del mercato e a causa di quello che facevano salirono, non so, di 10 volte. Allora, avendo investito in queste due compagnie, la prossima grande idea che aveva questo John Scurci fu Qualcomm. Secondo lui Qualcomm sarebbe diventata la tecnologia, diciamo, dominante dei prossimi anni. Ecco Peppe, dunque tu hai comprato questo titolo per un discorso di pura strategia di investimento legata a tecnologia. Quanto valeva quando hai comprato? Quando comprai il titolo era intorno ai $5 nel 90. Ecco, però scusa, ti interrompo. Ecco, quindi tu compri questo titolo. Sì. E che percentuale hai preso? Perché ovviamente facevate operazioni a hedge, quindi siete diventati degli azionisti importanti, avete acquistato un pacchetto forte? No, non era un gran pacchetto, più o meno abbiamo investito circa $5 milioni in questo titolo che aveva già una market cap abbastanza importante. Poi il titolo è salito molto, poi ridisceso e poi tu a un certo punto hai venduto e mi sembra che sia andata molto bene. L'azione era aumentata di 20 volte, io però mi sono dovuto accontentare di venderla on the way down e ne feci intorno a 15 volte, per cui fu un investimento che fece... Beh, insomma, scusa Peppe, ti interrompo perché chi ci ascolta sì. Dice ma come, questo si lamenta che invece di aver fatto 20 volte ha fatto 15 volte di questi sì. Tempi, ormai sembrano ricordi del passato, investimenti di questo genere. Senti Peppe, la cosa è questa che mi ha colpito molto, che qui abbiamo un italiano che dalla California si inventa una tecnologia che diventa chiave per la telefonia cellulare, cioè tutti i cellulari hanno questa tecnologia, fonda un'azienda, poi c'è da Londra un investitore italiano che eri te con la tua società che investe in questa società e nell'uno nell'altro all'inizio sapevano che ci fosse questo contatto italiano. Beh, devo dire che gli italiani nel mondo si sono fatti molto onore in certi casi e sono stato fortunato di aver partecipato a questa avventura. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee sull'America, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scrivetemi su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi voglio continuare con la classifica della National Public Radio delle migliori canzoni dei primi 6 mesi del 2013. Il brano che ho scelto è di Ashley Monroe, Used. I've got some buttons missing, and there's a couple stains in places where the fabric has been torn. But in the end, I'll be worth a whole lot more. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.